ascolto. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, Natalinux, dove sei? Esci fuori. Gianfranco, cosa vuoi? Che stai combinando? Che stai combinando di lì che ti vedo? Non contiamo su Giulio perché c'è il ciclismo e quindi se lo sta guardando. Ah, io allora siamo rovinati, se tutto va bene. Giulio non c'entra se c'è il ciclismo, il calcio, insomma, chi più ne ha più ne mette. Ma l'hai vista quella scena di quella guasta lì col cartellone? Che casino che ha fatto. Ma si può essere così imbecilli veramente? L'avrei presa a legnate, l'avrei presa, guarda. Non ho capito. A chi è che avresti preso a legnate? Quella tipa, quella signora, quella ragazza, cosa diavolo era, che si è messa con questo cartello in mezzo alla strada, inneggiando. E ovviamente se mi metti davanti a quelle velocità che fanno questi, come minimo mi prendo il cartellone in faccia. E questo se l'ha preso in faccia, è caduto, dietro c'è il gruppo, è caduto tutto il gruppo, una cosa micidiale. No, sembrano dei birilli. Tutti sono caduti, guarda. Hanno dovuto bloccare se a capo. Guarda, un'imbecillità. Io avrei citato per danni, come minimo. E infatti, no, non lo sarebbe successo a questa storia. Al Tour de France, la solita solfa di ogni anno, no? Perché è ovvio che la polizia non è che può controllare tutto il percorso ogni 20 metri. Ma con questa scema è uscita così col cartello, ovviamente quando passa il gruppo con lo spazio. Si è tolto lo spazio su un fianco, c'è stata una caduta che ha coinvolto tutto, perché lo sai che in quei casi, no, cade uno quando sei vicino uno all'altro, è una catena, ma un groviglio si è creato che non si capiva niente. Ma dimmi tu. E poi è brutto perché ti fai a beffa. In bicicletta quando cadi è un macello. Beh sì, perché chi c'è dietro se ne viene addosso, poi l'altro che c'è dietro va addosso a tutti e due e così via. Sarà una cosa micidiale, veramente. Boh, io non ne capisco, questa gente va a fare il tifo così senza sapere, senza stare al suo posto, senza aver sentito il pericolo, solo per farsi vedere. Per carità, il cervello proprio di galline che c'hanno. E infatti già la caduta è brutta in bicicletta, figurati se te ne saltano addosso gli altri, c'è un macello, roba di groviglio sarà, di biciclette, di uomini uno sopra l'altro. Ma l'ho fatta vedere dall'elicottero, praticamente sono caduti tutti, grazie a questo imbecille col cartellone in cartone, capito? Lui ha... perché quello che lo voleva era Cibio, si è preso in faccia pure. Ma è proprio, certa gente dovrebbe rimanere a casa, è pure chiusa perché è troppo pericolosa. E allora, è pericolosa per sé e per gli altri. Sì, anche se fuori di gabbo ogni tanto se ne vede, se ne sente una. Poveri noi, poveri noi. Ebbene, Natalinux, allora, cosa mi racconti? Che hai combinato? Spiazzato il tutto, o ancora in fase di costruzione? Devo pulire tutto, è tutto rugginoso, cioè, bisogna pulirlo bene, non è così. Se tu vedi come quella cosa, ti metti le mani in testa. Adesso era all'aperto, infatti te l'ho detto, è da pulire, ed era, beh, c'è comunque il 155 se non ricordo male, come cavolo, e quello è buono, quello non aveva fatto niente, perché era un punto dove ha attaccato una specie di piastra metallica, e comunque vi ribasta un coso all'aria compressa, c'è una specie di cartone che ce l'ho qua davanti con un matto che si può applicare sotto per non fare graffi. C'è anche la versione in gomma adesiva di questi così, cioè ce ne metti due, costa un euro credo, da cinesi, e fa l'adesivo. Io lo so, adesso bisogna tutto, il magnete, tutto quanto arrugginito, bisogna pulire il magnete e la placca che c'è, quella placca che c'è sopra il magnete, capito? Che quella se la vedi ti metti le mani in testa. Dormiva fuori, quindi dormiva fuori, però quello è stato pizzicato sopra quando lo metteva in macchina, secondo me, perché gli altri che sono uguali, un po' più piccoli, non hanno, non ce l'hanno questo problema. Non era fatto male, come si è aperto, magari è passato umido, tanto umido, già ce n'è. Anche adesso che sta facendo caldo, no, la mattina, cioè abbiamo le grondaie che gocciolano sempre. E infatti, ma io lo porto da Roberto, ce l'avrà qualche moletta lì, e vedrai come lo faccio. Beh, ma non fa niente comunque, mi la ruggine. È un magnete, non deve fare contatti, anche perché è isolato a prescindere. Quindi se ti serve solo, se non devi fare belle figure, lo copri e lo sigilli di nuovo, come nell'origine. No, non è solo il magnete, no? Anche la placca in ferro, perché l'altro è plastica. La placca in ferro che c'è sopra il magnete, mi capito? Quella lì bisogna pulirla, dove c'è il buco per entrare il bullone che entra dentro la base dell'antenna. Sì, sicuramente ha toccato acqua, perché di solito non sono precisi come buchi, non sono, c'hanno guarnizione, c'hanno niente. Quindi avrà fatto tutto quel casotto sicuramente. Ma tanto quello non lo dovrei togliere per metterci il coso lì, l'attacco della Sigma. No, perché è tutto plastica l'altro. Quindi ci vuole per forza quella placca. Che è successo Natale? Cos'era quello? Era un cinguettio ininterrotto o un innesco? Ho sentito un rumore fortissimo. Il canarino è che canta come un coso, quello lì canta un bel. Non c'era il potenziometro a diminuirlo, ce l'avrà sotto il collo o nel becco. E adesso dopo glielo cerco se ce l'ha, così gli abbasso il volume, poverino. Fa tanti versi, ma tu lo devi vedere come canta. Canta di più di quello che c'avevo io, che c'avevo prima, questo qui. Se fino a poco fa stava sempre cantando. Vuol dire che è contento. E sarà contento, sì. Gli ho pulito la gabbia ieri, tutto quanto, gli ho messo a mangiare, l'acqua. Ma quando fai quell'operazione lo trasferisci, no? Lo togli dalla gabbia, lo metti un'altra e poi viceversa, così. No. Quella già viene bene a farlo. Capito, non scappano, non possono scappare perché c'è prima una grata e poi c'è il cassetto sotto. Prima tolgo la grata e la pulisco, ci metto la grata e poi tolgo il cassetto per pulire il cassetto, dove ci cade tutta la roba. No, quella lì è fatta bene. A me gli animali in gabbia non piacciono, perché è sempre una limitazione della loro libertà. E ho visto noi ce l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo, è venuto lui, abbiamo un passero che ha fatto i piccolini e se li ha fatti sopra il fumaio a caldaia, dimmi tu, la caldaia dell'acqua calda. Che posti strani che si trova. E stamattina ho sentito che stavano chiacchierando i piccolini. Pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio. Con la temperatura che c'è fuori anche oggi. Non c'è certo bisogno della caldaia, c'è un caldo, però c'è anche il vento, quindi lo mitiga. Sì, infatti, cercano sono tutti riparati. Andrà bene me, da vai, vai, i buchi che mi hanno fatto, stavo guardandoli. Infatti, ma guarda, sono da tanto che non, che non accendo, vediamo un po'. Vedere se c'era in funzione il ripetitore dell'imbara, se era operativo quello digitale. Anche lì non si sente più nessuno, cacchia. Infatti mi è venuto il dubbio che fosse disattivato. E salivo lì sull'imbara con Mario. Capito? Dove c'erano i ripetitori per il pacco? Siamo saliti per mettere un interruttore a tempo, no? In modo che si spegnesse da solo e si accendesse da solo. È una cosa un po' strana, perché il ripetitore dovrebbe essere H24, sempre accesi. Ma quello era fatto così. A una certa ora si disattivava, deve essere. Mi ha messo questo coso a tempo. La buona anima di Mario. Che strano. Che strano, vediamo un po'. Sì, sta funzionando. Sta funzionando. Però mi funziona il solo sul TG. Vediamo un po' se mi risponde, perché c'hanno il test, no? TMR, collegato ai TDMR. Hai sentito? Yeah. Arriva bene, no, in digitale, se senti anche se all'imbarco. E te credo. E quello è l'antennino, cioè c'è l'antennino, c'è un'antenna qua sopra, dato che per un utilizzo locale su Sassari, ed è una X, non me lo ricordo, e comunque andiamo, quelle di 1,5 metri, sì, sarà una X200, una X50 magari, io ho una X300 in campagna che se ne sta ridendo, ma è dove qua, dove, come fai a pensare? Il problema lì è salire, è nata lì, è tutto lì il problema. Se ci fosse una cabina o qualcosa su cui poter inserire qualche cosina, anche perché tanto secondo l'antenna che metti anche senza radiali le sembra un tubo, loro ti fa un'antenna tipo quello che utilizza la polizia, no? Che sono dei dipoli in realtà, lo tagli a metà dalla giusta lunghezza d'onda, lo isoli e sei a posto. O fa in vetrosesi, magari quello vernici, ed è una cosa che non si vede, fa passare il cavo bello nascosto e sei a cavallo. Poi se è solo ricezione lo puoi fare anche col cavo antenna direttamente, ci puoi anche mettere un piccolo amplificatorino. E ce n'è una su piccolina che è per il PMR, per ascoltare il PMR, ma non la sto usando quella che ho pure dalla finestra, ascolta tutto, quella collineare da macchina, quella riceve benissimo. Non mi viene il nome, ce l'ho anche io, come è qua, è quella che c'ha la carica, una microcarica a metà antenna, che volendo si può anche inclinare, tirandola su, è snodabile, diventa. E anche la mia è così, Gianfra, è uguale, 1,5 metri mi sembra sarà lunga. Sì, c'è una buona anche larghezza di banda, la risonanza. E quella infatti l'avevo proprio fatta a pezzi, mi ricordo, perché mi serviva il progetto. Il progetto è abbastanza semplice, praticamente c'è un'antenna, c'è una bobinetta dentro, e c'è un condensatore che va da lì a massa, se non scordo, al polo caldo, da lì al polo caldo. E la Binetta invece è collegata a Massa, quindi è tutta una soluzione particolare, per farne una 5 ottavi. Io avevo aperto la Diamond, l'Exi 300, per aggiustarla, e anche l'X50. L'X50 però ne mancava la vecchia, figurati, ce l'ho avuta, perché non funzionava di nessuna delle maniere, mancava la metà dello stilo che ci ha attaccato. Comprerò una X30 che è più piccola pure. Io ho la 5000, la 7000, la 7000 che avevo addirittura un'altra casa, ovviamente anche quella all'aperto oramai si è mezzo frazzigata, quindi quella è difficile, è molto difficile da riparare perché è corrosa essenzialmente, quindi ce ne vogliono che sappinti veramente, certo sì, no? È una 7000 tribanda, quindi 2 metri UHF e SHF, perché va anche nei 1200, ce l'ho buttata lì, mi sa se qualcuno la vuole, perché si era spezzato il coso, uno di sopra, dove c'era il puntale, perché c'era stata una tempesta di qua, ma aveva buttata, si era sbattuta al codolo e si era rotta, e quindi poi l'avevo riparata, sì, però l'antenna era sempre, cioè qua con tra umidità e coso era sempre a rischio. Nonostante tutto c'era uno di stazionare, te le immagini? Ehi, vuol dire la roba di dentro è buona? No, stranamente no, non è buona, è rugginosa ed è meglio delle antenne nuove che ci sono sopra, roba da matti, a volte non chi ne capisce il breve. Comunque ce l'ho buttata lì, non serve a niente, diciamo, ormai non posso mettere sul tradicio e poi magari un altro colpo di vento forte e la fa pizzi. Ce l'ho lì, cioè sui radiali e niente, non me ne posso nulla, è lì a corrodersi anche quella. Senti, lì si corrodono, sì. Allora, tu devi vedere questa base magnetica, vabbè, ma non ti posso mandare la foto che tu non hai, per farti vedere la placca com'è. Ma Roberto già c'ha la mossa lì con la moletta, ma appento 5 minuti, vedrai come la finisco. No, per me non era un problema, cioè era un problema di tempo pulirla, capito? Non, quelle così, anche perché non la usavo, non me ne fregava niente. Ma volendo, io c'ho tutto, c'ho officina proprio, mola, compressori, vernice nera, quindi avrei so mollare, eccetera, ma non c'è il tempo di fare queste cose, capito? Io faccio prima comprare la nuova, tanto quanto costerà 10-15 euro. E su internet ce l'ho viste 21 euro mi sembra, 22 là, più la spesa di spedizione. Sì, vabbè, dopo la compri. Figurati che ne ho una qua di quelle piccole, però, molto piccole per antenne VHF. Adesso questa stretta è nuova, perché me l'hanno dato insieme all'antenna, ed è una basettina magnetica, ma giusto per qualche prova si può mettere, perché se no non l'ho usata per fabbricare un'antenna, per fare il test, perché c'è un analizzatore. Anche lì c'avevo mezzo pensiero di ricomprarmelo, di rifassare quello che c'ho, come ho fatto col 50, no? che l'ho restituito e mi ha dato questo 600, e adesso ho visto che c'è un'offerta il 1200, fino a 1200 arriva per costruire antenne. Io non riprendo subito perché stava cantando il canarino, se no tu sentivi a lui. Sì, tu quando canta fa le meo. A ver se si fa bene. È una coppia, la femmina non canta, no, fa ciu ciu e basta, invece il maschio canta un bel. Ah, quindi sono in due. Quello sta dicendo, me ne dai, lei fa la serenata. E per quello lo fa, allora. Aspetta, sto accendermi con il ventilatore. Ah, io ce l'ho già acceso. Attenzione, Mastro Giulio, ACC, K. Il ciclismo sta guardando quella, la faccia nostra. Giulietto, che fine hai fatto? Attenzione, cosa di controllo. L'ho visto stamattina. Quindi è in giro. Era in giro la torre di controllo. Quasi quasi, glielo dico, se la vuole quell'antenna, se la pulisce, se la ripara, se recupera qualche pezzo, se c'è da recuperarne. Tanto cosa mi fa? Perché lui mi dice, quando c'è qualcosa, portami. Ogni tanto mi ricordo che c'è qualcosa. E magari lui ci riesce a aggiustarsela. Se anche lui si è fatto l'officina attrezzata. La mia è una casetta in cui dentro c'è il trapano, una colonna, c'ho tre compressori, il coso lì, il come si chiama, trapani di tutti i tipi a go-go, anche il microtrapano. Poi ci abbiamo tre morse, un incudine e roba del genere, insomma molta attrezzatura. Sì, puoi fare quasi tutto lì. Perché praticamente abbiamo anche unito due officine, diciamo, la mia cognata e quella mia. Io ho un garage grande, non so quanto era, ci sono tre macchine, e quindi dentro c'era tutto, c'era tutti i tipi di chiavi, eccetera. Ma poi se occorre qualcosa io vado, la prendo, non è che sto lì. Ci abbiamo poi i cosi per tagliare rami, i seghetti elettrici a batteria. L'ultimo l'ho preso tre mesi fa, il gattuccio però è elettrico, non è una batteria, è un elettrico. La batteria l'ho preso perché anche per tagliare la lamiera, no? Che è più pratico, un po' pesante, ma ho visto che funziona. E se no i ferri che avevo io, non c'ho più nulla, mi hanno fatto sparire tutto, anche alle viti con la punta di trapano si sono attaccate. Adesso la devo ricomprare perché devo fare cosa, ma dimmi tu, il trapano con la corrente mi hanno rubato. Vabbè, già c'ho quella batteria qua, però quello rimane qua. Come te l'hanno rubato? Ma dove lo lasci? Fuori, all'aperto? No, avevo lasciato la casa aperta, perché dovevano fare cosa, no? E mi è sparito il trapano, quello a corrente, quello che funziona a 220, e le viti che avevo comprato per mettermi queste zanzariere più grosse dietro quelle fini, e però me le hanno fatte sparire. E chi vuoi che sia? Mio fratello è quello piccolo, il piccolo, quello che abita a Porto Torres, che fa il pescatore. Chi si attacca a tutto. Ah, di quelli, come si dice, mal di fatta? E le unghie lunghe c'ha. Qualche giorno gliele taglio. Aspettina, ma dimmi tu, tutte le chiavi che mi hanno perso, c'avevo serie di chiavi io, guarda, avevo poco di roba. E anche qua, ragazzi, c'è l'armadio della Betta, quello metallico da officina, che è carico di chiavi di tutti i tipi e generi. Figurati. Io ne avevo un sacco di roba, solo che ce li attacca a mano, capito? Tipo calamita. E così è anche inutile avere la roba, se vuoi non acciappi perché te la grattano, buonanotte. Sì, e se non nella cabina dove c'è tutta la roba, che mettevo la roba lì e loro da lì mi hanno rubato 4 canne da pesca. Adesso 4 ce le ho, ma sono dentro casa chiuse a chiave, quelle lì, quelle non le possono toccare, anzi no, 5 ne ho, perché ne ho 3 piccole e 2 grandi. Vabbè, ma almeno a chiedere, io se me la chiamo qualcosa la do pure, non è che, però a prenderle così, caspita. Hanno fatto sparire le mie e quelle di mio nipote, le canne da pesca, complete di mulinello e tutto. Chi c'è due e si rabbinduti in questo d'orra, sicuramente, più che lui non è, perché Angelo non mi tocca. Ah, anche per vendere, allora anche peggio, perché insomma, se te le do io è un conto, ti dico tienitele, se invece ti allunghi la mano, insomma, è una cosa brutta, soprattutto poi se si è fratelli, non si fanno queste cose. Lui non se ne fa niente delle canne da pesca, no? Cosa se ne fa? Lui va col peschereccio a pescare, no? Non se ne fa nulla delle canne da pesca. Quello lì ce le ha vendute. Cavolo. Cosa si sente, cosa si sente? Ma è meno male che non c'hai eredità grosse da lasciare, se non ti fanno fuori quelle persone. Meno male che non c'hai. Non c'hai terreni, che non c'hai roba di valore, capito? Se non ti farebbero fuori pur di grattarla. E prima di fare fuori a me, io faccio fuori a loro. Come si dice, parenti serpenti. Ehi, parole sante sono quelle. Ma io non... non siamo così, ecco. Se occorre una cosa, vado, la compro subito. Io voglio la pace, la tranquillità. Quando c'è da fare qualcosa la facciamo insieme, ma siamo tutti qua tanto, quindi tutta la famiglia praticamente è qua, no, non ci abbiamo nessun altro, capito? Ma con uno, col mezzano vado d'accordo, e con il piccolo che non vado d'accordo, e per non avere problemi me ne sono andato, c'ho la casa e tutto lì. Perché ci abita anche lui? Ehi, abita lì, abita. Fianco. E ci abita anche Angelo lì, abitano lì tutti e due. E io lo stesso abitavo lì, solo che per non avere problemi di non bisticciare con l'uno e con l'altro me ne sono andato e ho fatto bene. Tu pensa, mi sono anche sposato, proprio per andarmene. Addirittura. No, così è brutto, ma non c'è un'armonia, se poi si è anche fratelli, guai. E infatti, non va bene così. E poi io, se c'è una cosa e ti serve, te la do, io sono di buon cuore, non sono uno di quelli magari avari, magari la chiedi a loro e non te ne danno, capito? Qualcosa. Mia moglie non è tua la vita, ce l'ha con loro a morte. Perché lo sa perché me ne sono andato, per non bisticciare con loro. Beh, così è brutto. No. Oi. Vabbè, ma perché la gente deve essere così, no? Ci sono certi che la faccia non le piace, ma perché? No, sarebbe stato meglio uno che si aiutava l'altro. Da sempre le persone hanno sempre bisogno di qualcuno e quando si uniscono riescono a superare qualunque difficoltà, ma così veramente è brutta la cosa. È brutta sì, che poi a me, mi di quanto sono riservato, io non do fastidio a nessuno. Io conosco pochissime persone, 2 o 3. A me non mi conosce nessuno, perché di quanto ero riservato, poi non ce l'ho quasi mai, perché prendevo la macchina e me ne andavo, no? Andavo lì per mangiare, per dormire e basta. Quindi non mi conoscono neanche, se vogliamo. E c'ero 30 anni lì. infatti non da io non do fastidio a nessuno, io mi sto nel mio, capito? E non rompo le scatole a nessuno, sono loro che per poco con quello che è pescatore, con quello per poco arriviamo alle mani, mi dà poco. Addirittura. No, così è troppo brutto. Ecco, arrivare troppo forte dalle mani è una cosa grave. Tu la casa comunque ce l'hai di lì, quindi quando vuoi te la puoi anche vendere. Ma cos'è una palazzina? Cos'è? Un palazzo inseparabile, ecco, indivisibile anzi. No, la mia è separata dalle loro, è a fianco alle loro la mia. E poi ti pare che me ne andavo con una posizione invidiabile che avevo per poter avere la stazione radio lì, Maiu. Me ne sono andato perché mi hanno disgustato. Beh, a questo punto non ti conveniva venderlo, vendevi quel pezzo, tanto non c'erano problemi, sei separato. Sì, è a fianco a quella di loro, capito? Ma adesso me la metto a posto e vediamo un po'. Tanto, anche se ci vado a abitare, nel senso non fisso, no? Magari al tempo bello solo ci vado, perché lì fa un freddo della Madonna in inverno. E non fa. Però a tempi belli a farmi gli spuntini con gli amici posso andare, capito? Me la metto a posto per quello. Beh, ok, ma è lontano dal paese, o è di lì? No, lo sai dov'è? È a Filighi, 2M. Ah no, io avevo capito che era Usilo, figurati. No, è dietro Usilo praticamente, a fianco a Usilo, è là. Praticamente è un ben alto dove sono io. Tu pensi a Sassari non c'è niente quando fa neve, no? E lì ce n'è fino al ginocchio. E a Sassari magari non c'è nulla. Tu già salendo dove abita Marcoli, già lì senti che si abbassa la temperatura. Beh, la zona è alta, vabbè, non è sempre con noi tutti i giorni così, con la neve comunque. No, ma però in inverno è triste, mi puoi rimanere bloccato lì. Io ho visto 4x4 tornando indietro, mi non riuscivano a avanzare. Sì, vabbè, ma sono cose che capitano una volta all'anno, dai. Sì, lì già capita. Io mi sono visto con la neve alle 4 del mattino quando andando a lavorare, perché c'è una salitina lì a stringere le catene, che mi si era bloccata lì la macchina sopra la salitina per andarmene. Alle 4 del mattino mi sono visto lì così. Vabbè, ma insomma, adesso che si anziano non è che devi per forza uscire di casa, eh? Infatti, sì. Ma ci vado al tempo bello, adesso me la metto a posto. Poi salgo con mia moglie, una volta è messa a posto a fare pulizia, ecco, tanto c'è tutto lì. E la cucina l'avevo comprata da poco, nuova nuova. Io ho un amico lì a Filighedo, però la sfortuna che è una zona molto alta, però è concava, capito? Lui è molto in alto, però è un avvallamento che praticamente non riesce neanche a ricevere Monteoro. Ho dovuto mettere un antennone di quelli ad alto guadagno, proprio per riuscire a ricevere almeno di cose lì, segnali televisivi. Figurati. No, io vedo Sassari, dal tetto della casa si vede Sassari, tutto si vede da me. Io sono un ben alto, sembra così. E poi c'ho la Mantova 5 che è sopra, 12 metri di palo, due sezioni da 6. Ancora dal muro? Ehi, cavolo. Quell'antenna è un ben alto, chissà se c'è ancora in piedi, l'ultima volta c'era. Beh, a quelle altezze bisogna anche stare attenti, non ci condizioni temporali, non bisogna tanto fidarsi. Vabbè che poi cade dove vuole, non è che per forza fa cadere lì. E una volta è caduto il fulmine, mi ha bruciato il motore del pozzo a 80 metri di profondità. Capita. Qua infatti il posto per sicurezza non c'è a terra, così almeno non evita queste cose. Poi la terra se la fa il tubo comunque perché è metallico, quindi il problema non ce n'è. E anche lì c'erano i tubi metallici. A Salina aveva 80 metri, si voleva vedere, li ho eliminati quei tubi. E ne ho messo uno più leggero. C'avevo un motore io che era un treno, una Asturia era di quelli grossi, cazzo. E me l'ha bruciato, è caduto proprio il fulmine e me l'ha crepato. Infatti capita, no, il nostro c'ha metallico ovviamente, il coso, no? Così c'è il corpo che scende, poi il tubo di collegamento dell'acqua è in plastica, quindi di quelli classici che mettono nell'elettropompa. Speriamo di duri, perché adesso da molto che non si parecchi anni, vabbè che la pompa se non si sporca, se non c'è niente, va tranquilla per parecchi anni. Il nostro 100 metri credo. Il mio 80 metri. Scende quest'acqua che sembra dal frigo, di quanto è congelata. La fanno la bottiglia. Infatti, ma a quel punto guarda, la soluzione ideale per te era venderla così e prendertene un'altra in qualche altro posto, tanto se per litigare, guarda, anche a me è capitato, io ero in una casa che ho vissuto benissimo per anni, benissimo, ci ho passato credo 6-7 anni proprio. E ci avevo tutto quello che mi serviva, era in condominio tra l'altro. Poi hanno iniziato a affittare a delinquenti, l'ambiente è totalmente cambiato e quindi ci hanno guardato in faccia, ho detto no, ogni notte rumori, casini di tutti i generi, ho detto no, non è cosa per noi, aiuto. Abbiamo chiesto, erano tre appartamenti. Più vivere, proprio noi eravamo gente educatissima, tranquilla, soprattutto che pagavamo tutto, questi erano tutti, se ne hanno scelti proprio tra i peggiori, gente che andava da un condominio all'altro per distruggerlo, proprio di chissi famiglia di guarda, mi hanno fatto entrare a vedere una casa che era a fianco alla mia, io ero in un mini attico, a fianco alla mia che l'avevano vista affittata ai milanesi, a dei milanesi, tu dovevi vedere cosa c'era questa casa, mettersi le mani in testa, voleva tutta rifatta da capo, di quanto era sporca, di quanto era piena di muffa dappertutto, roba staccata, i vandali, gli unni. Sì, per forza, se la affittano a dei buzzusi, io già lo so dove abitavi, che abitavi vicino a quell'altro amico. Sì, da quello che ulula. un amico che però poi, un amico di convenienza, anche quello, gli amici veri non è così semplice, non sono per interesse adesso. Sì, infatti, molta gente ha notato che è solo per interesse, per convenienza. Oi. Quante volte, va, c'è presente un libro di quelli grossi, ma di quelli grossi, ho potuto scrivere, guarda, io sapevo tutto, ma, ed ero contrario essenzialmente a tutto di quella persona, a tutto, perché per rappresentare delle persone, subito se li facevo amici, poi li incontravo, ma non è andato questo, non si è fatto più idee, non più nulla, neanche greba, è così, ma guarda, onestamente devo dire che la moglie me lo diceva sempre, guarda che è uno sfruttatore, no, no, non ti fa incantare da... quindi figurati. E se te l'ha detto la moglie, figurati. E lui già l'ha fatto. Una santa era quella donna, guarda, la mia moglie così, mi sono sposato anch'io, ma quando ho visto poi chi c'era dietro, la capì. E già ce ne sono donne brave, si tratta di trovarle brave così. È solo che se le trovi poi e non sono brave, la vita diventa un inferno. È una delle poche cose, ti dirò, di cui non mi sono mai pentito. È uno dei pochi rischi che non ho mai voluto correre, perché ne ho visto troppe. Tanti miei colleghi, tanta gente, ma finita male sul serio, no? Proprio loro fuori di casa, indebitati, a non finire, quasi prendevano lo stipendio fisso, ma ci dovevano mantenere Natali, cose allucinanti. Sì, non ti preoccupare, ne ho visto anche io. Ne ho visto io parecchie di queste storie così, che sono finite male. Ah, tu figurati che ho saputo che c'erano determinati paesi, a me me l'hanno sempre detto, tu sei da prendere e sposare immediatamente, però non mi sono mai fatto abbindolare da queste cose, perché meno male c'avevo le mie esperienze, perché piano piano guardi, controlli, sondi e verifichi, ma guarda, le donne, soprattutto tante di certi paesi che non nomino per rispetto, veramente era una caccia, non so se hai visto tu, te ricordi il film di Richard Gere, Ufficiale Gentiluomo, era in quel paesino, no? E c'erano quelle ragazze che lavoravano in posti, in bar, in postacci, figini, la cui ambizione era, stavano lì solo perché c'era la base militare e si volevano sistemare sposandosi un pilota, perché ovviamente i piloti erano ben pagati, capito? E così erano in certi paesi sardi. E allora, vanno a caccia del buon partito, no? Infatti, ma soprattutto il buon partito buono, capito, quello che sta contenta in tutto, quello che si tratta come una regina, questo che tra l'altro mi sembra anche doveroso, non è che la donna la devi trattare male, ma di lì non era per amore, capito, era una cosa così, e poi magari ti trattavano come uno zerbino, ma quanti ne ho visti, quindi va tutto bene, va tutto bene, ma se non c'è amore, no, cosa ti sposi a fare? Capito? No? Come dice, nella bella e nella cattiva sorte. Lo so, purtroppo. Io sopporto lo stesso, perché se era stato come ero prima, che non sopportavo, mi sei lasciato anche con questa, perché questa è una bravissima donna, però è una rompiscatole di primo ordine. Ma guarda, Natalie, come ha detto Francesco, la mattina ci puoi anche litigare, però la sera di nuovo le porti un fiore, capito? Soprattutto quando si raggiunge una certa età, bisogna stare uno con l'altro, ma se no veramente questo è un sacramento, ma anche se fosse un matrimonio civile, se non c'è la sostanza, che l'affetto, l'amore, eccetera, cioè non è che se vuoi una compagnia ti prende una cameriera, la paghi ogni mese e morta, secchio, ecco. Allora, una badante, grazie. Appunto. Ma non è, se no, una cosa troppo brutta. Mi auguro, sì, vabbè, soprattutto nei tempi di adesso, se ne sentono di tutti i colori, gente che poi si sposa anche senza testa, capito? Dopo 6 mesi sono già in una sorta di collisione. Manca il sale, capito, Natalì? È una cosa senza gusto. E poi sono troppo viziate adesso le donne. Non sanno soffrire come quelle di prima, alla minima cosa subito si separano, perché no, non andare da tu. Dimmi tu, dopo 6 mesi si molla, Mario, non esiste. Molte volte è colpa degli uomini anche che pretendono di fare da sposati quello che facciamo da quando non erano sposati. Ne ho visto tante di queste cose, ma cioè, se ti prendi un impegno è anche sul tuo onore, sulla tua buona volontà, non è che devi andartene che ci vuole di casa e fare mancanti. Può capitare una volta la tentazione, va bene, tutto si perdona, però se prendi il matrimonio per avere una che ti fa da mangiare, ti lava la roba, e allora è meglio che te ne stai solo. Infatti, io ho avuto tante storie, però non ero sposato e facevo quel che mi aggradava di più, diciamo così. Adesso che sono sposato, faccio l'uomo sposato. La gente deve capire quello. Poi non gli ho fatto mai, a mia moglie io, mai un dito. Non sono un tipo che beve, perché non lo sono stato mai. Insomma. No, su quelle cose, guarda, non ne parliamo nemmeno, perché con la gente lì che fa quelle azioni, chi picchia una donna, o anche chi picchia un uomo, perché anche quello si è visto, ma chi arriva alle mani nella famiglia non c'ha dignità, capito? Non c'ha onore, non c'ha niente. Poi se picchia la moglie è il più grande disonore che si possa avere, perché un comportamento violento al di fuori proprio del matrimonio non è possibile. La propria moglie deve essere rispettata. Se manca il rispetto non c'è niente, no? Ripeto, l'amore è anche quello, anche il rispetto. Non è che l'amore, molti confondono l'amore con andare, con fare sesso, ecco, confondono questa cosa qui, mentre invece è soprattutto rispetto, comprensione, perdono tra i due, perché uno e l'altro, insomma, nessuno è perfetto, ecco. Però invece no, non è così, per molti devono avere sempre ragione, arrivano alle mani a cose veramente, soprattutto nei palazzi. Mi hanno detto dei carabinieri che il maggior numero di interventi lo facevano proprio per queste cose, perché c'era il marito che faceva casino, che arrivava a casa ubriaco, la moglie che era isterica, insomma di tutto hanno visto. E infatti le liti in famiglia sono all'ordine del giorno, perché quando arrivi imbriaco la prima cosa che fa se la prende con la moglie, e non è giusto. Già ci sono anche quelle donne che si fanno rispettare, che sono loro che picchiano il marito. Ma infatti io sono sempre per guardare tutte e due le parti, mai una parte sola, perché quando si dicono quelle parole si fa si prende quell'impegno, quello prende in sede civile davanti al sindaco o davanti a un prete, deve essere una cosa di convinzione, deve essere una cosa di soprattutto d'amore. Ma se l'amore ti accorgi che al posto di essere una fiamma è un fiammifero che al primo colpo di vento si spegne, allora è meglio stare tranquilli, perché la vita può essere anche molto molto dura così. È solo che la gente pensa che le cose, sai, pensa al lusso, c'è un buon posto, c'ha tanti soldi, si è sistemata, eccetera. E poi queste cose sono ancora più gravi quando ci sono figli, poi è una tragedia, perché fortunatamente sì, è vero, c'è il divorzio, però sono ferite che vedi veramente veramente grosse. Poi il classico è che lui inizia a bere, le sbatte la porta, i figli diventano intrattabili, perché in tutta questa tensione situazione, succede quello che succede, insomma è un patatrac generale, capito? E poi chi ci piangono sono sempre i figli da queste cose. Per forza, perché i genitori devono essere in qualche modo un pilastro, un esempio soprattutto. Adesso noi stiamo parlando di queste cose che sono brutte ovviamente, però guarda, io ho assistito personalmente a delle scene quando ero insieme a una persona molto molto anziana, aveva 80 anni, e faceva l'autista. Questa persona qua si pentiva perché per una volta aveva, ma confidate, io mi sono pentito, mi sono anche messo a piangere, mi ha detto, perché ho tradito mia moglie una volta e le ho detto che andavo a lavorare, invece sono andato con questa donna che mi ha così, il circuito diciamo così, e praticamente l'ho tradita, mi è rimasto sempre il coso, ma li dovevi vedere, guarda, lui malato, lei molto molto molto anziana, che a quell'età si incontravano, si baciavano e si rispettavano in maniera esemplare, con i figli lo stesso, educatissimi, che andavano a trovare sempre il babbo eccetera, cioè vedi, quelle sono le cose che sono quei matrimoni di gente che affronta il sacrificio e anche le avversità in maniera coraggiosa, anche se hanno commesso delle marachelle, ho capito. Lo so, ma vedi che quello si è pentito di aver tradito la moglie. Invece adesso adesso si sposano per sistemarsi queste qui. Cosa vuoi che alla minima difficoltà si avviano d'urgenza e divorziano. Non sanno, prima i matrimoni erano veramente matrimoni, adesso è una farsa. E poi adesso finisco anche in televisione, basta guardare quello forum, figli che denunciano i genitori, genitori che denunciano i figli, mogli che non vogliono il figlio in casa, mariti che non vogliono la moglie in casa, guarda, è tutta una cosa per soldi, cioè è proprio, non ci sono valori, capito? E quindi sono cose finite prima di iniziare, secondo me. E quelli che si vedono già anziani e si vogliono separare, e te da prima non te ne potevi accorgere che non ti piaceva tua moglie, sì, oppure la donna col marito che si vuole separare a 70 anni di una bici, infatti guarda, a me tante volte mi hanno detto, perché non ti sistemi? Però la parola stesso, perché non ti sistemi, è una parola sbagliatissima, appartenente veramente al modo di ragionare sballato. Io non mi devo sistemare, mi devo trovare una persona di cui mi fidi, di cui avrò un rapporto che sia onesto e duraturo soprattutto. E queste le vedi, fanno le cose, non le accappa. Come si dice? E poi succede il patatrac, casino grosso, e fanno ricchi gli avvocati, tra l'altro, ma di tutti i livelli sociali, quindi ricchi, anzi i ricchi fanno proprio schifo a volte, perché lo fanno proprio per interesse, i poveri, tutti quanti legati a una voglia di non avere rogne, di non avere sacrificio, mentre il matrimonio è una rogna, sono tanti problemi, o peggio ancora quando ti dicono, quando sei vecchio, chi ti assiste? Ma perché, scusa, quante volte è successo che la moglie se ne è andata, che ha lasciato le persone lì abbandonate, cioè ci sono tante storie da raccontare, quindi neanche quella è una giustificazione. Ripeto, se manca quella che è una fiamma bella alta, no, meglio non commetterne di quegli errori, ecco, perché poi la vita diventa veramente difficile. E infatti io ho vissuto tanto tempo da solo, ma tanto però, che me ne ero andato a casa perché ero fidanzato con una io. E mamma mi aveva detto, una all'entrata, quando mi sono lasciato, no? Una all'entrata non entra più. Come ha detto così, me ne sono andato a casa. Un amico mio mi aveva insegnato a farmi da mangiare, sapevo lavare la roba, tutto qua. Guarda, io mi facevo tutto da solo, stavo benissimo. Sì, ma io ho imparato da ragazzo molto giovane, a fare tutto. Farmi a mangiare, a cucinare, a lavare, a pulire casa, ma a prescindere queste cose le avrei fatte anche da sposato, perché giustamente la moglie non può essere lasciata sola, perché io mi accorgo che è un carico comunque pesantissimo, non è che, perché il nostro lavoro dura, che ne so, fino a 67 anni adesso, il lavoro delle donne dura fino a quando campano, e quindi una mano bisogna darla per forza. Mi ricordo mia nonna carica di spesa, che là si andava a piedi al mercato, eccetera. Io sono nato, sicuramente lo sai, dove c'erano i palazzi dei mutilati, perché mio nonno era reduce della prima guerra mondiale, mentre mio padre ha fatto la seconda. Quindi ti puoi immaginare Natalia a quell'epoca. E anche lì, diciamo, era difficile comunque la convivenza, perché allora di lì c'era anche la metà della stavamo dei luoghi, quindi figurati. E già lo so te queste cose, Giulia. Io sono stato un sacco di tempo che vivevo da solo. E io ho adottato sempre il motto, meglio solo che mal accompagnato. Ed è quello giusto. No, no, io non pretendo che sia quello giusto, però nel mio caso probabilmente è quello giusto per il tipo di persona che sono, perché la vita di altri che ho visto, io non so se ci avrei avuto il coraggio di farla, di lì lasciando, sbattendo le porte, facendo altre cose peggiori, no, non esiste. E purtroppo è diventata una cosa fortuna, capito? Io conosco anche tante ragazze, tante donne, tante colleghe anche che sono eccezionali, per quello che vedo poi da fuori, poi da dentro, sai, all'interno a casa mai dire mai, però da quello che vedo, insomma, sono delle donne esemplari. Purtroppo vedo che i mariti non lo sono altrettanto, ecco. Quindi c'è anche viceversa, in cui i mariti sono dei micrucchi e delle donne invece sono proprio uno e l'altro, cioè, bisogna essere fortunati di lì, ecco. Avere la fortuna di incontrare una persona che sia veramente affidabile. Il difficile è quello, trovare la persona affidabile. Così, Natalie, ti devo lasciare per 10 minuti, perché non so se si sentiva, ma è scattato l'allarme. Era la lavatrice che mi diceva, oh, io ho già finito di travagliare, aiuto, vieni a prenderti la roba. E vai, vai, Gianfredo, sono qui in ascolto, chiama quando hai finito. E intanto io, col caldo che c'è, asciugo anche subito. Io ogni tanto, quando posso, faccio un pieno e poi stendo. Eccoci qua, Natalinux, allora esci fuori, io ho finito. Sono qua Gianfra, che ero in cucina. Beh, anche a te tocca, non tocca solo a me. Io ho steso tutto e quindi adesso ho la temperatura che c'è fuori, che sono le 6 e c'è più caldo delle 5, che strano, no? Sì. Io infatti non apro, c'ho la cosa, come si chiama, ma la oh, non mi viene, guarda che trincolino, cioè la persiana, no, che la tengo chiusa così non entra la luce, perché sennò la temperatura schizza, perché il sole adesso è dalla parte mia, nel pomeriggio il sole si posiziona verso Alghero e quindi io sono puntato verso Alghero e c'è molto caldo. Adesso la maniglia della porta sarà rovente.